I already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. Gentlemen, we want to get underway immediately if we can. Since you last met at Ole Miss 12 days ago, the world has changed a great deal. And not for the better. Allora, questo è Tom Brokaw, il conduttore, il veterano di tanta televisione giornalistica della NBC, che ieri ha condotto il secondo dibattito, quello che si è tenuto in una università di Nashville, nel Tennessee, nel gelo, se me la passate, di quella che era un'aula appositamente creata, strutturata, con queste sedioline, con tutti i signori molto spaventati che cercavano di non fare rumore. Zitti zitti, ciascuno con il suo fogliettino, con la sua domanda, in attesa di essere eventualmente chiamati da Tom Brokaw, perché questo era il dibattito, l'unico dibattito della serie, tra John McCain e Barack Obama in formato town hall, ovvero riproducendo un po', no, quello stile pionieristico del raduno della cittadinanza in una sala consiliare per discutere e decidere insieme. Insomma, io vorrei sapere il vostro parere e me lo potete dare al 349-238-6666 via SMS se vi va, se avete visto delle immagini, ma io ho la sensazione che questo signor giornalista abbia fatto polpette del dibattito in questione, rendendolo sinceramente noioso, ma a tratti insopportabile, per un motivo molto semplice: ha costretto Barack Obama e John McCain, oltre che a una rigida disciplina per cui non si potevano l'un l'altro dare quelle battute che poi insomma fanno parte della politica americana arrivati a questo livello, ma soprattutto li ha trascinati per 90 interminabili notturni minuti nel solco di quella che erano state le loro prese di posizione, le loro chiacchiere, le loro discussioni, già i loro confronti su due unici argomenti, sempre gli stessi: la situazione economica, con John McCain che si è attaccato a questa sua proposta di 300 miliardi di dollari, un ulteriore stanziamento con il quale lo Stato dovrebbe rilevare la situazione dei mutui più in difficoltà, più a rischio dello scenario americano, e Barack Obama che ripeteva cose che ha già detto ormai a più riprese in tanti appuntamenti. I due si sono soltanto parzialmente strusciati, toccati, pizzicati, ma nulla di serio è avvenuto, perché non si è usciti dal seminato. Due argomenti: politica internazionale, economia. Economia, politica internazionale, dico delle parole a casaccio: aborto, armi, matrimonio omosessuale, immigrazione, temi cardine della società americana d'oggi che rischiano di non venir mai tirati in ballo, ed anche per colpa di chi gestisce il gioco, nella fattispecie questo giornalista che si è presentato e si è condotto per tutto il tempo del dibattito veramente in modo a dir poco impettito. Sentite una delle poche così battute, come dire, fuori dal seminato di John McCain. By the way, my friends, I know you grow a little weary of this back and forth. It was an energy bill on the floor of the Senate, loaded down with goodies, billions for the oil companies, and it was sponsored by Bush and Cheney. You know who voted for it? You might never know. That one. You know who voted against it? Me. Allora, Bush and Cheney, sapete chi ha votato contro di loro? Io. Sapete chi ha votato a loro favore? E qui McCain ha tirato fuori una delle sue. Quello lì, ha detto, parlando di Barack Obama, che ha sobbalzato, insomma, sulla sua sedia, perché essere chiamato a livello di nominato, quello lì, da McCain, che nel frattempo gli girava educatamente le terghe, non è proprio il massimo della vita. La performance di McCain è stata così, affaticata, stanca, non particolarmente brillante, sempre alla ricerca dell'ammiccamento, spesso nei territori celesti del grande generalismo. Quella di Obama è stata non particolarmente rinfrancante, direi un po' narcotica, priva come sempre del punch, insomma del colpo giusto, picchiato al momento giusto, e tutto sommato, se ha fatto un punto, è stato proprio nel finale, quando ha ripetuto una appello che comunque ormai ripete instancabilmente da un anno e mezzo, quello secondo il quale con lui presidente potrebbe rinascere il sogno americano. And the question in this election is, are we going to pass on that same American dream to the next generation? Riusciremo a passare alla prossima generazione lo stesso sogno americano che i nostri genitori hanno passato a noi, lo stesso sogno americano che ha permesso al figlio di una madre single, come sono io, di avere studi eccellenti e addirittura di presentarmi qui stasera in veste di possibile presidente della nazione. Oggi ci riusciremo. È stato un appello pronunciato con professionalità ma anche con classe da Barack Obama, che in un certo senso gli ha fatto vincere alla fin fine questo round tutt'altro che entusiasmante del dibattito, ma ai punti, insomma, non credo che si avranno risultanze, sobbalzi particolari sulla base degli andamenti, però è anche vero che chi sta andando bene continua a farlo e chi va male non trova soluzioni, e se chi va male e non trova soluzioni sono in questo momento i repubblicani, allora mi viene da dire e da aggiungere un'ultima cosa: è meglio un McCain così flagrante nella sua vecchiezza politica e anche in una certa approssimazione, Mr. Past, il signor passato, lo ha battezzato Frank Rich del New York Times, o tutto sommato è meglio Sarah Palin? Turns out one of his earliest supporters is a man named Bill Ayers. Almeno una decisione l'ha presa, va dritto al fegato, al cuore, allo stomaco, chiamate come volete, comunque agli organi vitali dell'avversario Barack Obama, del congio Biden non ci parla proprio, e lo attacca sul personale. Lei è protagonista in questo momento in prima persona di un attacco che è stato ripreso niente meno che da Anderson Cooper della CNN, che gli ha dedicato una puntata del suo show in cui analizza a fondo i fatti importanti della giornata. La questione è la connessione più volte ventilata anche qui in trasmissione da noi tra Barack Obama e un terrorista degli anni dei fiori, no? dei Weather Underground, un weatherman, un terrorista che si era occupato di attaccare strutture governative come lo stesso Pentagono, ma senza per fortuna far seguire alla violenza limitata che metteva in scena dei risultati tragici. Un uomo che ha scontato della galera per questa questione, è uscito, lavora nei servizi sociali, effettivamente esiste, parrebbe esistere, sostiene Anderson Cooper, un contatto che va oltre la casuale conoscenza con Barack Obama. È una questione di soldi, una questione di finanziamenti a buon fine in favore degli studi, ad esempio, dei bambini poveri, i bambini meno fortunati della città di Chicago, dove entrambi hanno agito in un settore appunto assistenzialistico. È un discorso che coinvolgerebbe addirittura Jeremiah Wright, no? Satana per alcuni repubblicani, ovvero il reverendo di Barack Obama, che a sua volta sarebbe in connessione sempre in questo giro di soldi, ma ripeto, il giro di soldi intesi come finanziamenti di origine pubblica a istituzioni o comunque a enti preposti a gestire forme educative dei meno fortunati. Comunque una collaborazione pare esistere, CNN ci ha lavorato ieri e naturalmente chi ci ha lavorato oggi, credo in modo più efficace di quanto ha fatto il suo capo John McCain durante il dibattito, se non Sarah Palin? What a beautiful time we had together. Now it's getting late and we must leave each other. Tell you it's all in the way you feel. If you love is real, come to dibattiti. Qua ci vuole Al Green per tirarci su dopo una notte così. Mi sembra che siete anche piuttosto d'accordo, leggo dei vostri messaggi. Simo scrive: il peggior scontro elettorale degli ultimi 30 anni. Enzo scrive: un dibattito, più che un dibattito tra candidati presidenti, mi è sembrata la televendita di John e Barack, marca USA. Beh, effettivamente hanno buttato via una occasione per far capire veramente al paese chi sono e dove vogliono andare. Adesso 8 giorni ci dividono dall'ultima occasione, quella che come etichetta, come sottotitolo ha politica interna, all'America di oggi. Vediamo se riescono ad andare oltre, no, questi confini soffocanti nei quali sembrano chiusi dentro. Prima pagina. Voliamo da ovest a est, andiamo in Cina, dove incombe sempre questo scandalo del latte contaminato alla melamina, che direi giorno dopo giorno diventa sempre più torbido e sempre più inquietante. Perché per esempio oggi la Reuters, quindi se parla Reuters insomma ci inchiniamo, certo. Fa una stima sua personale, però insomma suffragata da una serie di conti, di calcoli, secondo i quali addirittura il numero dei bambini contaminati per aver ingerito latte contaminato alla melamina sarebbe addirittura il doppio di quello che poi è stato reso noto come numero dalle autorità cinesi. La Reuters accusa proprio le autorità cinesi di non dare dati ufficiali dal 21 di settembre, quindi non aggiorna i dati, e quindi calcolando invece alcuni numeri forniti da una serie di quotidiani locali, arriva a stabilire che i bambini contaminati, peraltro non tutti per fortuna in gravi condizioni, sarebbero addirittura 94.000, cioè praticamente il doppio del numero fornito invece dal governo cinese. Beh, che poi parla... una cifra sulla quale facciamo finta niente perché siamo in Cina. Ma, beh, ma comunque sono comunque tanti, anche nella Cina che ha più di 1 miliardo di abitanti. Secondo invece le fonti ufficiali, cioè i numeri dati dal governo cinese, ci sono 12.892 bambini in ospedale, 104 gravi e circa 40.000 invece con problemi di salute non gravi. Insomma, quindi sul latte teniamo alta la guardia. Nel frattempo sono finite altre 14 persone in manette nella provincia dell'Hebei, quindi il totale è di 27, mentre sono più di 90 le persone interrogate. E poi piove sul bagnato, perché non c'è solo il problema del latte, ma addirittura arriva anche la notizia dalla Cina dell'acqua potabile all'arsenico. Ottima. E quindi anche qui c'è un nuovo problema. Un bicchiere ogni mattina all'orizzonte. Allora, sembra che le vittime della nuova contaminazione siano 136, sì. E si tratta di abitanti della regione autonoma del Guangxi, siamo nel sud della Cina, che hanno accusato gonfiore agli occhi e alla faccia, hanno cominciato a vomitare e avere poi problemi di vista. La colpa sarebbe appunto questa fonte da cui hanno bevuto acqua, fonte inquinata dagli scarichi industriali di una vicina industria metallurgica. Comunque il governo cinese, il governo locale perlomeno, rassicura che nessuna delle persone avvelenate sarebbe in gravi condizioni. Io vi parlo soltanto di una notizia che appare e scompare, un factoid, come si potrebbe dire, perché poi è tutta da verificarne la veridicità, e soprattutto invece è una certezza la sua ciclicità. Riguarda Steve Jobs, il boss della Apple, un marchio che tanti di voi sono certo amano, anzi in un certo senso idolatrano magari, no? I computer della mela. Già tempo fa, anche con il contributo della rete televisiva Bloomberg, ci fu una notizia, poi rivelatasi fortunatamente falsa, di una situazione di salute gravissima di Steve Jobs, che venne presentato come colpito da un grave infarto, in pericolo di vita, e ci furono conseguenze borsistiche sensibili. La questione si è ripetuta pochi giorni or sono, questa volta addirittura a esserne protagonista è niente meno che la CNN, attraverso però una sua sezione particolare che si chiama E-Report. E-Report è la sezione CNN dove i contributi possono essere forniti direttamente dai fruitori, da coloro che visitano il sito, e possono caricare dei video con delle notizie che, come in questo caso, poi si rivelano completamente false. Guarda caso, ieri vedevo il TG3 Rai, no? Che invitava a ogni genere di informazione, di scarico, ma in certi casi anche un po' di delazione, non so come dire, gli spettatori, no? Mandateci se vedete qualcosa di strano, se vi capita. Ulteriori controlli, insomma. E diventa questo giornalismo così più di gruppo, un po' pericoloso. Per fortuna, almeno per Steve Jobs, la situazione di salute è ottima, ciò non toglie che il titolo naturalmente è sceso. Torniamo in Oriente perché il China Daily oggi ha pubblicato la classifica degli uomini più ricchi di Cina. Ogni anno viene stilato un rapporto che si chiama Urun China Rich Report. Veniamo a sapere che i miliardari cinesi, perlomeno in yuan, sono 101. Uh-huh. E peraltro invece più di 1000 persone hanno 700 milioni di patrimoni. Allora, il più ricco è un 39enne costruttore edile che si chiama Wang Guangyu e ha un patrimonio stimato di 6,3 miliardi di dollari. Uh-huh. Poi viene sottolineato che è in aumento il numero di miliardari di semplici. Che però hanno attività legate alle energie pulite, quindi all'ecocompatibile, insomma quello che forse è la frontiera del futuro. Direi che il nome, almeno per noi, più famoso in questa lista dei più ricchi è un certo Yao Ming. Oh, Yao Ming è miliardario. Dunque, Yao Ming è 987esimo e ha un patrimonio di 700 milioni di yuan, basta togliere uno zero, quindi 70 milioni di dollari. Ne ha guadagnati 15 soltanto nella stagione 2008-2009. Siamo più tranquilli, adesso poi comincia il campionato. Breathe a sigh of relief, but not all hiding under the sheets. Mother's son, beautifully dressed, walks the streets only in his vest. Here again, nothing's changed. I'm flying through all my drifting plane. And I grace the earth with my views. You don't wanna hear, but that's up to you. What you want about me, 'cause I don't believe what I read, so I don't mind to see you have no clue where I'm going to. Le elezioni presidenziali americane 2008. Obiettivo 4 novembre. E ne mancano solo 27 giorni alle elezioni presidenziali al 4 novembre, quindi mandiamo in archivio anche questo secondo dibattito. Tra poco ne parleremo comunque con Mario Platero, che lo ha seguito per il Sole 24 Ore da New York. Intanto vi do qualche risultato di gradimento, diciamo così. Ha organizzato un sondaggio a caldo, ad esempio la CNN, però accusata come non mai in queste settimane di non essere troppo imparziale nei suoi giudizi. Il risultato da un Obama migliore per il 50% del campione di elettori, mentre solo il 30% ha visto un McCain più convincente. Un altro paragonabile sondaggio è stato condotto dalla CBS al termine del dibattito di Nashville in diretta televisiva, e per la CBS il 40% degli intervistati giudica vincitore del dibattito Obama, solo il 26% dà a McCain il dibattito, il 34%, cioè non pochi, dice pareggio, secondo me sono quelli che dormono. Invece sentiamo, anche perché a lui, contrariamente che a noi, l'orario era più propizio, quindi non ha tante scuse, insomma. Sentiamo se Mario Platero il dibattito se l'è goduto dall'inizio alla fine, bello sveglio, attento. Caro Mario, ho raccontato che qua non è stata facile, insomma, quelle cose lì le abbiamo sentite dire già, diciamo, una dozzina di volte, che dici? Sì, l'abbiamo sentite spesso, sì, ti confermo che il dibattito l'ho visto dall'inizio alla fine, e sì, ti confermo che in tutto quello che abbiamo ascoltato c'è stato un tentativo dell'ultimo istante di John McCain, certo, di tirare un po' fuori il coniglio dal cappello, facendo una proposta aggiuntiva che ha colto un po' in contropiede Barack Obama, dicendo diamo i soldi direttamente a quelli che hanno i mutui e che sono in difficoltà, quindi direttamente al risparmiatore, al consumatore che si trova in difficoltà, diamo i soldi a lui, lui li restituisce alla banca e il sistema si rimette a posto. È una cosa diciamo di cui si era parlato, però alla fine si era concluso che nel momento in cui arrivano i soldi direttamente al consumatore è più facile che quello vada a comprarsi un televisore piatto da Walmart piuttosto che rimborsi il debito, tanto all'idea che qualcuno alla fine lo salva. Quindi c'è stata questa boutade e niente, io Due domande per te, Mario. Sei d'accordo, fai parte, io un po' mi ci metto, per esempio, di coloro che pensano che molte responsabilità della inutilità relativa di questo dibattito siano da addebitare a chi l'ha condotto, cioè a Tom Brokaw, che gli ha dato veramente una matrice molto convenzionale. Sì, allora Tom Brokaw gli ha dato una matrice convenzionale, ma non dimentichiamo che c'è un negoziato serrato e ci sono delle linee guida su cui le due campagne raggiungono degli accordi blindati e che poi il conduttore del dibattito deve assolutamente sottoscrivere. Quindi ad esempio non si è parlato... ha fatto delle domande, come si dice, cute, delle domande che così, soprattutto l'ultima, qui invitavano più alla battuta che al discorso serio. Ecco, in un momento come questo, in cui l'America sta scivolando sempre più in basso, il mondo, la crisi finanziaria, la catastrofe economica sono alle porte, ecco, credo che Tom Brokaw avrebbe dovuto dare così un colpo d'ala un po' più elevato. Non so se poi i candidati avrebbero raccolto questa sua ipotetica provocazione, perché la cosa che a me ha colpito di più... Non so, un argomento come l'immigrazione, ad esempio, è possibile che non esca mai fuori in questi dibattiti? Beh, sai, quando brucia la casa si pensa a spegnere l'incendio e poi magari... Ne hanno parlato brevemente nel dibattito, è venuto fuori come tema, ma in modo, se vuoi, marginale, perché il dibattito sull'immigrazione in America è andato avanti per 4 anni nell'ultima amministrazione Bush, si è arrivati molto vicini a un passaggio di un piano, alla fine sono stati poi i democratici che lo hanno bloccato e quindi diciamo il piano c'è, ma c'erano una serie di problemi, una cosa di cui si è discusso molto a fondo, ma in questo momento con la crisi finanziaria, con la gente che ha paura, con una persona su 6 che ha ormai la casa che vale meno del mutuo, con la borsa che è in crollo, la gente è appiccicata allo schermo per capire chi sarà il leader che porterà il paese fuori da questa guerra, perché ormai siamo in uno stato di guerra finanziaria, economica, ma pur sempre con tutte le ansietà che in altri tempi emergevano quando c'erano delle guerre vere e proprie. Ebbene, nessuno dei due, secondo me, è riuscito a emergere nel momento in cui c'è l'occasione per fare un discorso appassionato, trascinare l'audience e portarli con sé a raggiungere quell'obiettivo. Tutti e due prudenti. Ti dirò, secondo me è stato più aggressivo John McCain, infatti mi ha un po' colpito il fatto che tutti i sondaggi davano la vittoria a Obama, perché io trovo che McCain sia stato più aggressivo di Obama, sia stato meno scontato di Obama, abbia fatto delle provocazioni. Obama è stato sempre il solito, molto disciplinato, molto coerente, straordinariamente controllato e dunque un po' freddo. Certo. Ma questo è un momento in cui c'è bisogno di calore e non di freddezza. Ormai sembra che, per concludere, sembra che il nomignolo che Frank Rich ha attaccato a McCain, questo Mr. Past, no? Mr. Passato, questa atmosfera di vecchiezza, magari messa in relazione neanche tanto con l'avversario, ma con quello che di eccessivo di populista sta facendo nelle stesse ore Sarah Palin, no? Sparando direttamente al bersaglio grosso, provando a connettere Obama con complotti terroristici, però in un certo senso faccia più effetto di questo McCain, che sembra per adesso un po' avviato, no? Verso un destino di una campagna elettorale non positivo, se non trova il colpo di coda, lo può trovare ancora? Guarda, non credo che riuscirà a trovarlo, a meno che ovviamente non ci sia la solita sorpresa di ottobre, che è la grande sorpresa che tutti si aspettano, ma la grande sorpresa di ottobre l'abbiamo avuta a settembre, in realtà, quando c'è stato questo crollo frenetico delle borse. Dunque, quella è stata la vera sorpresa, quello è stato l'elemento che ha cambiato la dinamica della corsa, perché come tu ricorderai, come i nostri ascoltatori ricorderanno, dopo la convention di St. Paul, McCain era riuscito a portarsi in avanti. Certo. Ecco, però si era portato in avanti con queste sorprese a breve, perché la Palin ha colpito l'immaginazione collettiva degli americani, ma poi alla fine si è rivelata un po' così, una tigre di carta. E dunque McCain, con la crisi a settembre, si è trovato improvvisamente in difficoltà. Quella è stata la svolta, il momento decisivo che ha confermato la svolta è stato lunedì della settimana scorsa, quando la borsa ha aperto 700 punti, quando il Congresso non è riuscito a passare quel famoso piano, e a quel punto da lì in avanti Obama ormai è su posizioni avanzate e in fuga, difende la sua posizione. Per questo la prudenza di ieri, per questo temo anche al prossimo dibattito avremo forse un incontro scontro così probabilmente modesto, ma staremo piuttosto a vedere. Deludente. Grazie ancora a Mario Platero. Mancano 8 giorni, vi ricordo, all'ultimo dibattito che si terrà nello stato di New York. E comunque lo staff di Barack Obama fa sapere di non essere certo disposto a incassare questi attacchi di cui vi parlavo a più riprese oggi, pronunciati soprattutto da Sarah Palin, che riguardano le connessioni di Barack Obama con Bill Ayers e addirittura questo circolo, no, di possibili complottardi che prevederebbe anche la presenza di Jeremiah Wright, e in sostanza mettono in piazza eventuali possibili panni sporchi di John McCain, non solo il possibile ruolo giocato nello scandalo Keating Five, ma oggi delle ultime ore sono anche allusioni al coinvolgimento in uno dei più famosi scandali politici della storia americana, ovvero l'Iran-Contra, esploso nel 1986 durante l'amministrazione Reagan. Sono stati presi in particolare di mira i legami del senatore McCain con un gruppo privato che si chiama US Council for World Freedom, il Consiglio americano per la libertà mondiale, che fornì aiuto ai guerriglieri Contras del Nicaragua, che volevano ribaltare il governo di sinistra del paese. Sono naturalmente primi accenni, primi allusioni. Poi, come abbiamo già detto, se il gioco si farà duro, queste cose verranno a quel punto mostrate in tutta la loro scandalosa interezza ad un paese che, così facendo, però rotolerebbe ancora di più nella confusione. Dunque, caro Emiliano, qui fra le notizie dell'ultima ora di cui conosciamo la portata e anche questi memento, no, di questo dibattito così piuttosto frastagliati della notte, anche la stanchezza notte, insomma. Abbiamo voglia di allentare un attimo la tensione e noi abbiamo l'antidoto, ce l'abbiamo, e ha un nome breve. Un nome e anche un cognome che non diciamo per la privacy, mai. Che è Paolo, però Paolo. Basta il nome, direi ormai. Paolo, capitolo 42esimo, parte seconda. E tra l'altro un ascoltatore che ci ha scritto l'ha definito shanghaizzato per amore, mi sembra una bella espressione. Insomma, Paolo ha lasciato tutto, vita privata, famiglia, lavoro, per andare a Shanghai. Da più di un anno ormai ha una vicenda amorosa con una ragazza molto bella di Shanghai. Ieri l'abbiamo ritrovato dopo un mese di pausa e oggi ci avviciniamo poi agli argomenti caldi, cioè per sapere come sta andando con la sua fidanzata. Cominciamo con una sua, per scaldare l'aria, con una sua croce permanente, caro Paolo, il visto. Ma io il mese scorso, esattamente il 18 settembre, ho rinnovato il mio visto turistico, non un semplice visto turistico. Perché ad agosto l'avevo fatto ad Hong Kong, il famoso visto di Hong Kong, visto turistico. Questo visto turistico, a differenza del business, non devo uscire dal paese dopo un mese, quindi il solito volo ad Hong Kong, quindi il 18 agosto l'avevo fatto ad Hong Kong, il 18 settembre mi scadevano i primi 30 giorni e sono andato all'ufficio immigrazione qui a rinnovarlo per altri 30 giorni, quindi adesso attorno al 18 di ottobre mi scadono questi secondi 30 giorni. Dovrei, il 99% non dovrei avere problemi a rinnovarlo un'altra volta, perché la validità massima del visto è di 90 giorni, quindi 3 mesi, quindi adesso tra una decina di giorni, poco più, vado a rinnovarlo per un altro mese e poi non... sono in attesa di sapere, magari anche da voi, se avete notizie in merito, se la situazione visti qui nella mainland cinese è ritornata come prima o no. Devo un attimo informarmi adesso, perché io ho sempre sentito ottobre come, e in particolare mi sembrava di aver sentito 19 ottobre o giù di lì. Quindi manca poco. Data. Paolo, ci informeremo. Da quello che sappiamo, la situazione dovrebbe un attimo tranquillizzarsi, normalizzarsi e quindi dare anche più possibilità agli stranieri di avere un visto con maggiore facilità. Quindi fino a metà novembre comunque sei coperto, diciamo, sei a posto. Sì, intorno al 16-17 novembre non dovrei avere problemi, insomma, a rinnovare. Caro Emiliano, mi era sfuggito questo tuo ruolo di consulente, no, lui ci ha agente chiesto, di viaggio. Fatemi di sapere Paolo. Voi se col visto ci sono novità, indagheremo anche su questo. Intanto volevo rendere onore a chi ha trovato l'espressione shanghaizzato per amore, che potremmo appiccicare perfettamente a Paolo. Si tratta di Stefano, che ci ha scritto una bella mail. Lui in questo momento si trova proprio in Cina, vive e lavora da marzo al Yunnan Institute of Technology, quindi nel sud della Cina. Anche lui è veneto, c'è questa nidiata di veneti che vanno in Cina. Lui è di Mestre, quindi vicinissimo tra l'altro alle lande, alle bande di Paolo, e anche lui ha trovato l'amore, quindi forse scopriremo un nuovo personaggio. Andremo a indagare anche su Stefano, che tra l'altro ci dice che invece dell'emergenza latte, discorso che ieri ha toccato Paolo, ne parla costantemente la TV di Stato, che peraltro è l'unica emittente nazionale che trasmette lingua inglese, quindi può capire anche Stefano. Vedremo se Stefano raccoglie il testimone di Paolo, ma noi per ora restiamo fedeli al nostro eroe. Ed eccole qua le ultimissime amorose, appunto, da Paolo. Quest'ultimo mese è abbastanza tranquillo. La scorsa notte, l'ultima notte, è stata un pochino più movimentata. Ogni tanto, con una cadenza mediamente di una volta al mese, due volte al mese, c'è qualche... In genere capita sempre di notte, delle nottate, perché lei torna la notte dal lavoro, quindi a luna. Ogni tanto c'è qualche notte un po' più movimentata, e quindi la scorsa notte abbiamo fatto le ore piccole, perché c'è stata qualche così discussione, perché ognuno poi, lei è testarda ed è impulsiva un po' troppo, non so se sia una caratteristica. Quindi Paolo, scusami, il problema è che è rientrata troppo tardi? No, il problema, ma sono delle cavolate che poi un po' per testardaggine dell'uno e testardaggine dell'altra poi vengono un po', come spesso capita, penso ovunque, amplificate, quindi, però poi a distanza di 3-4 ore ci si accorge che stupidi entrambi. E quindi fate pace molto, molto rapidamente. Però tu, visto che il momento peggiore era stato quello in cui c'era stato un certo attrito e lei ti aveva un po' accusato di seguirla, insomma, nei suoi spostamenti, su questo possiamo stare tranquilli che, insomma, ti sei calmato? No, su questo sì, no, da parte mia su questo non c'è nessun problema. Do più fiducia a lei. Pian pianino il tempo serve anche per conoscerci meglio. Questo ultimo mese l'avete passato insieme a Shanghai? Quando è tornata a fine agosto, per 2 o 3 settimane è stata tra virgolette ancora in ferie e quindi siamo rimasti sempre assieme praticamente 24 ore su 24. Poi è iniziato a lavorare e quindi adesso, come spesso, come accade, poi dal pomeriggio all'una, due, così, sono sempre da solo, quindi... Però questa è la routine normale, insomma. Certo, però insomma, mi sembra che il clima tenda al sereno, possiamo dire così. Sì, ogni tanto c'è qualche nuvoletta, come vi ho detto prima. Vabbè, ma quello fa parte di tutte le coppie, Paolo. Penso che sia normale. Mi auguro con il tempo la sua impulsività, che a volte non è positiva, tenda un po' a calare. E va bene, quindi avete avuto, volenti o nolenti, le ultimissime da Paolo, insomma, c'è la commedia all'italiana, secondo me dovrebbero inventare la commedia all'italiana cinese. Perché... Paolo sempre più saggio, tra l'altro, le sue parole. Sì, sta anche trovando il suo menage, la sua routine, naturalmente non lo perderemo di vista qui da Jefferson Ming, dove io sono Stefano Pistolini, in redazione al mio fianco Emiliano Enrico, in regia a Roma Alessandro Chiappini, a Milano Valeria Bernardi, la mail jeffersonming@radio24.it, questa puntata la sentite in replica se volete stasera alle 9, in diretta domani alle 4 qui da Radio 24.